Quando la vita è tango, tutto è possibile. Arabeschi di luce sul palcoscenico. È solamente vita, morte, miracoli. Vita dentro la morte, che è poi reciproco. Come il corpo con l'ombra che si accompagnano. Ed è solo nel sonno che si compongono. Nel sonno dove i sogni dall'ombra nascono. Aprono nuove porte, ci trasfigurano. E misteriose tutte le cose parlano. Sul filo d'equilibrio dell'impossibile. Vita e morte s'abbracciano e si fronteggiano. Avvinti come fa con l'ulivo l'edera. Eterna la vicenda di luce e tenebra. Ma la vita e la morte non ci riguardano. Ma la vita e la morte non ci riguardano. Tango mio tango, credo solo ai miracoli. Quando dal nulla appare l'inesprimibile. E dallo squarcio penetra l'impossibile. Parapapà. Paraguay. Gina, certi argomenti sono insondabili. Apparizioni, suoni, materia organica. E sono affascinato, voglio conoscere il punto dove in altro le cose volgono. Il sapore del suono delle tue sillabe. L'ansia vertiginosa delle tue vertebre. O mentre taci e stai lì distratta e candida. L'umidità dei sogni che ti attraversano. Delicatezza e forza che ci accompagnano. Osceno e lieve come ci si compongono. Passione e intelligenza non si distinguono. Nell'arte misteriosa di cogliere l'attimo. E l'attimo è il silenzio tra mille ipotesi. Che c'è dato di cogliere e di percorrere. Ricamando arabeschi nell'impossibile. Sul filo delle note di questa musica. Paraguay. E forse ognuno ha dentro la propria musica e suona uno spartito e nel tempo cambiano le varie esecuzioni della dinamica, però si tratta sempre della medesima, perché si tratta sempre della medesima. Gina, vorrei parlarti di metafisica. Siamo sospesi tra redenzione e tenebra, in una danza eterna di tipo cosmico. Sospesi tra l'orribile ed il magnifico. Cercando in qualche modo una linea tenue con quella gentilezza che serve a vivere. Travolti da torrenti di sangue torrido. Sospesi tra l'orribile ed il magnifico. Cercando in qualche modo una linea tenue con quella gentilezza che serve a vivere. Travolti da torrenti di sangue torrido. Paraguay.